Eccola qua. Oddio, ci siamo. Oh, come un déjà vu. Sono le ore. Questo è l'intro. Che è 31. 0-0. Vai! E buongiorno a tutti su Radio Forte 100 Celle Avengers. Non vedevo l'ora di dire questa cosa. Buongiorno. Wow. Anzitutto voglio ringraziarvi veramente per questa emozione ogni volta diversa, questo buttarsi in radio di corsa con i contenuti ancora da sviluppare, la corsa in macchina e soprattutto, sì, mi sono scordato anche oggi qualcosa di abbastanza utile per andare in diretta, ma comunque, niente, ci stava Giorgino anche questa volta. E quindi la squinta. Giorgino ci salvi sempre. E quindi mi è consentito, con tutto il solito ambaradan, salutare alla mia destra la console Betta. Ti butti sempre giù. Ecco, ho sbagliato. Buongiorno. Grazie, Giorgino. Questo perché alla console, alla mia sinistra, non c'è stava chi ci doveva stare, c'è stavo io. E quindi. E quindi con un po' di polemica salutiamo Virginia. Ciao. Che se lo mette a tempo l'applauso. Beh, se lo faccio da sola. Continuando la carrellata di All Stars di 100 Celle Avengers, abbiamo The Beautiful Mind, Franci. Addirittura All Stars, ammazzo. Ma ciao. Applauso sempre più pacato. Esatto. E cominciamo con a salutare gli assenti, perché comunque qui è presente soltanto lo zoccolo duro. E anche Iron Man, cioè anche Iron Man, salutiamo Iron Man. Ciao Iron Man. E salutiamo sempre male l'immancabile intelligenza artificiale di Alexa. Sì. No. Vabbè. Sempre ciao, decisa e confusa. Confusa e felice. Mentre da remoto, nelle remote vie di Centocelle, cioè qua vicino a Magnà, salutiamo la giornalista faziosissima che mi ha portato le, non me l'ha portate le chiavi, ma l'altra volta mi ha portato l'alimentatore, Gabri Gruppi. Sempre giù. Niente. Sempre un po' di polemica, ti butti sempre giù, però ciao. Sta, Gabri, stamano sta può essere, ti butti giù dal suo palco che te butti caso. Giù. Oh no, torniamo a Scar. E mi sia consentito anche di salutare la maestra, professoressa, DJ Viola. È vero. Grande Viola, che sta seguendo il suo corso da DJ e ci sarà molto utile, lo sappiamo tutti quanti. E salutiamo anche chi arriverà. Eh già, a breve, eh già. Non so fra quanto. Questo è hype puro, allo tensione. Stato puro. La tensione palpabile sta arrivando direttamente da Liegi Baston Liegi. Un film di Manlio Cavaldonati. Esatto. Detta la astrologa, ma voce soprattutto di 100 Celle Avengers e della scuola di musica, Julie. Wow. Ti aspettiamo. E mo non arriva, sicuro. Sarà qui alla mia sinistra, quale onore. Adesso c'è tipo un pupazzo, tipo il pilota automatico dell'aereo più pazzo del mondo. Poi ci sarà una persona vera. Il gonfiabilone, vuoi dire? Il gonfiabilone, esatto. Che tutti ricordano. Non è vero, non lo ricordiamo più nessuno, solo noi vecchi niente, famose una ragione di questo e di tante altre battute che finiscono così nel dimenticatoio. Questi giovani maledetti. E quindi che stavamo a dire a proposito di citazioni che cascano un po' nel vuoto? Ce l'avevamo un tema oggi? Ma no. Certo, ma no. Certo. Come ma no. Certo. Come no. Non lo sapevate? Sì, c'era. Scusi, non c'eravate all'ultima assemblea di redazione? No, avevo un raffreddore. No, io ero più bravo ai compiti di matematica, i temi. Ma di solito copiavo. Ma per caso, però, c'è una generale voglia di interrogarci? Certo. Ecco, allora. Il tema è finito male. Maestro, ci interrogano oggi. Quindi state attenti sul canale Telegram, perché interrogheremo anche voi, amici. No, ma tanto Betta, va bene, per carità. Fra, non che mi guardare dire? Nemmeno quando mi interroghi. Cioè. Non sarà. Vabbè. Più un giochetto, dai, non più divertente. Fammi un integrale doppio di... C'è tanta gente qua, io non c'entro nulla. E niente. E quindi stavo qua. Che abbiamo fatto? È l'una e mezza, è l'ora di pranzo. E io ho fatto. Comunque ho preso soltanto uno dei miei 6 caffè. Quindi non sarò proprio sveglissima. Lucidissima. Lascio un po' la palla a voi. Ma infatti il grande ringraziamento era non solo per l'emozione della radio che ogni volta vivo insieme a voi, ma per questo sogno che mi avete aiutato a realizzare. Cioè, condurre. Sì, anche. cioè, prenderne solo 6 e non 16. Di condurre una trasmissione mattutina, cioè di poter dire buongiorno 100 non vi ho mai visti a quest'ora, cioè le cose sono un po' appannate in questa regia a quest'ora. Siamo diversi? Noi è raro che ci vediamo quando c'è il sole, cioè i nostri veri colori, la nostra armocromia noi non la conosciamo davvero. Cioè siamo praticamente dei vampiri. Sì. Questo radio. Per sottolineare quanto sia bello stare qui nel soppalco di Radio Forte oggi che finalmente ha deciso di smettere di piovere e fare anche del sole. All'una e 37 di sabato 21 febbraio noi genialmente qui del sole è tipo droga tipo e stiamo comunque a battere le brocchette perché fa un freddo che... certo comunque ripeto vi ringrazio perché questo è anche un ennesimo gesto di riappropriazione dei nostri valori in particolare di Uno Mattina che comunque l'hanno avuto i fasci per tanto tempo perché è una trasmissione emblema della Rai e io ai tempi in cui era Uno Mezzino, ho ancora il trauma dell'infanzia che a tutti importa cioè quello di essermi diciamo quando c'era invaghito o comunque assuefatto alla presenza di Elisabetta Gardini nella mia vita. Era una funzione materna che aveva perché a casa mia si appicciava il televisore anche alle 7 di mattina e c'era Uno Mattina condotto da Elisabetta Gardini. Mo vatti a vedere chi è Elisabetta Gardini io oggi. Me la ricordo se non sbaglio oggi? Ci stava pure Iotobi è tipo che Frau Blücher è tipo Frau Blücher di Fratelli d'Italia cioè ma è diventata forse è sempre stata e quello appunto il problema mio che oggi si rimette a posto perché oggi io mi riacchiappo il palinsesto della mattina e posso dire buongiorno a Luna buongiorno Vietnam esatto non volevo dire Vietnam ma tutti avevano capito la citazione e l'avete capita? Come voleva si dimostrare sì prima. L'avevamo capita sì, un saluto rimetta a posto la candela va bene questa è e quindi no, io stavo cercando, non volevo cercare Elisabetta Gardini, quindi volevo che mandassi un pezzo. Vabbè, allora approfitto per dire che non abbiamo neanche più pensato a cosa avremmo messo come musica generica che ho voglia di no, niente. Dopo. No, quello è appunto. Dopo. I gesti che mi fanno in redazione sono fuorvianti. Io nel frattempo, mentre dicevo quello che dicevo, mi sono andato a ripescare una roba così per. Solo per farvi sentire di nuovo la sigla degli scartati, la ricordate? Scusa, che manna a me? Scartato. Niente, era questa sigla quando ancora le sigle erano brevi e drammatiche. E perché la sigla degli scartati? Perché il pezzo che andiamo ad ascoltare fa parte di quei pezzi che all'inizio volevo dare quest'anno al laboratorio, poi ho detto no, forse no. Guarda come l'ha preso già qualche altro laboratorio, quest'anno va così. Siccome comunque l'avevo messo nel listone, poi ho notato che casualmente quello era gradito a molti, no, vabbè, molti. Comunque, per scusarmi del fatto che non lo faremo mai, Walking on a Dream. We are sempre in diretta a gamba tesa su Radio Forte 100 Cella Rangers all'ora che ci pare, però almeno facciamo un po' di servizio pubblico. E nel senso, come al solito, la mancanza dei professionisti veri, quando noi siamo dei dilettanti, fa sì che la nostra trasmissione sia un po' bucherellata, un po' un colabrodo di cose che siamo manchevoli. Quindi vogliamo dire almeno come si fa a protestare contro di noi. Ci sto arrivando, mi guardano come dire che cazzo sei, ma come sempre, io la prendo un po' larga. Quindi anzitutto volevo dire che questa puntata sarà disponibile in podcast allorquando la vorrete risentire sul sito forte.net/radioforte, tutto un menu fornito di non vi sto a dire cosa, perché abbiamo già trattato questo argomento nella puntata 62. Ma soprattutto abbiamo un canale Telegram, un canale diretto, palpabile, col quale allorquando vi interrogano oggi, quindi venite con cui, sul canale, scusa, con cui allorquando, piuttosto che potete interagire con noi, criticarci, farci crescere insieme a voi. E questo canale si chiama partecipare ai quiz, si chiama t.me/radioforte100cellaavengers. Sicuramente non l'ho detto bene, ma comunque basta fare una ricerchina su Telegram, raga, ci stanno i canali, uno cerca su, mamma mia, boomer e... Ah, bello! Detto ciò, questo è il momento appunto del servizio pubblico. C'è un altro servizio pubblico che possiamo svolgere quest'oggi e mi aiuta a svolgerlo meglio la nostra Beautiful Mind, Franci. Grazie Daniele, quale onore, perché ho l'onore di invitarvi, se volete, questa sera a venirci a sentire. Suoneremo con i Rock Cartoons. Suoneremo in quel bellissimo locale che è il Chattanooga, che sta a via Pontina, dalle parti di Pomezia, chilometro 27800, come si faceva una volta. Il chilometro non... Allorquando vogliate andare. Allorquando voleste venire. Ci sarà un ospite speciale che sarà Ghio Marcerina, che è una delle cantanti, insomma, dei Cavalieri del Re. Ha cantato... Top! Esatto, tipo Gigi La Trottola... su... Super Auto Mac 5, vabbè, insomma, Coccinella. La tua città. Esatto, Gigi La Trottola. Ti chiama già. Esatto. E il concerto inizierà alle circa 8:30, 9. Ci sarà anche lo stand della Nippon Shock, dove potrete comprare manga, libri, insomma tante cose legate, insomma, al mondo del fumetto e dell'animazione in generale. E soprattutto, se vi volete cantare qualche pezzo dei cartoni, dopo ci sarà il karaoke, quindi evviva! Venite, vi prenotate, ah, perché vi con i Rock Cartoons non si canta i cartoni. No, devi cantare tutto. Poi quando è nel microfono puoi cantare con la voce. È il momento vostro, il momento e poi vostro. Dopo. Poi dopo, se volete. Se volete. Se volete. È come un po' il canale Telegram, se volete. Se no, insomma, esatto. Allorquando. Non si offende nessuno se non volete. Qualora non voleste. Volevo anche dire che finalmente pubblicizziamo il concerto di qualcuno di noi che suona. Yeah! Mettiamola lì. Evviva, grazie Fra. Esatto, così. Ecco. Evviva. Quindi noi che non ci fidiamo, vogliamo un attimo capire che cosa si viene a sentire. Ascoltiamo. Vi facciamo sentire un ripescone allucinante. Questa l'abbiamo registrata, pensate, nel lontano, credo, 2020. Era in pieno periodo Covid, quindi registrare da casa e poi remixata. Questa è una versione di Ken il Guerriero, tutta acustica, tutta per voi. Mai scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio, e gli avvoltoi sulle case sopra la città senza pietà. Chi mai fermerà la follia che nelle strade va? Chi mai spezzerà le nostre catene? Chi da questo incubo nero ci risveglierà? Chi mai sceso come un fulmine dal cielo. Ken, sei tu il nostro condottiero e nessuno al mondo adesso è solo. Ken, sei libero, l'unico, l'ultimo angelo. Ken, sei l'energia, l'azzurra magia. Stella dell'Orsa Maggiore, stella su di noi, guerriero va, guerriero va. Acciaio nelle mani, tu la mia speranza nel domani. Mai, mai scorderai l'attimo, la terra che tremò. Vai, vai, tu vivrai giorni felici. Stella dell'Orsa Maggiore, stella su di noi, guerriero va. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Complimenti ai Rock Cartoons per questa versione di Ken. Fatto. The Warrior. We can. We can. Yes, we can. We can col mo- basta. E continua il nostro, diciamo, essere osservanti del servizio pubblico, per cui io volevo anzitutto collaudare il nostro backup. Si è rotto tutto. Ottimo. Si è rotto il backup. Sì, sì, sì, aspetta, aspetta, qualcosa c'è, qualcosa c'è. Ok, se sentite questo vuol dire che siamo morti. Ma non è questo il giorno, però no, volevo no. che tutti fossero, diciamo, coscienti di questo fatto, anche che arriva molto pazzo, quindi ci faremo poco. Però in effetti deve essere un sottofondo, quindi sì, mi sento più sicuro dopo che ho fatto questa prova. E, ma adesso che c'è questa cosa non succede più niente di quello che è successo l'altra volta. Ovviamente, quindi non ti preoccupare. Ma a questo serve prepararsi, a certo. non far succedere niente. E, comunque nel nostro servizio quotidiano, visto che abbiamo deciso di andare in onda in questo giorno bislacco, a questo orario bislacco, a questo punto segnaliamo anche che il corteo di Valerio Verbano, che normalmente si svolge il 22 febbraio perché il giorno è quello, è stato anticipato al 21, quindi oggi, quindi concentramento alle 16 a via Monte Bianco a Roma Nord. E, detto ciò, sono un po' emozionato dal fatto di trovarmi di fronte a un nuovo nato, una nuova stella che nasce qui in questa redazione. Facci cioè una nuova rubrica. Non vorrei aver creato troppa aspettativa, come sempre, ma sento che la direzione è quella giusta per ritornare in carreggiata, quindi al momento posso soltanto dire oddio, vedo Betta un no, po'. No, niente. Mi stavo sentendo poco, ma noi comunichiamo dietro di te, davanti puoi parlare. Cioè, Betta non mi stava sentendo. No, io non mi stavo sentendo da sola. Se dico quella parola con la S, Betta non abbassa il volume del sottofondo. Qual è la parola con la S? State zitto. Cos'è? L'hype alle stelle. Allora, questo è Supereroi Minori. Sigla. Non era vero. Noi siamo i supereroi. Ciao, siamo i supereroi. Noi siamo super, sempre più super. Noi siamo i supereroi. minore. E benvenuti a, questo, a questa primissima puntata di Supereroi Minori. Su Radio Forte 100 Celle Avengers. Che bello. Ti dirò, addirittura per continuare a vivere questa magia, ti dirò, c'è un suo sottofondo così che mi professionale questa trasmissione è veramente parola con la S. Top of the pop. Eccoci. Allora, anzitutto viva le sigle cantate, viva le sigle brevi, questo grande ritorno della sigla entro i 30 secondi che ci mancava e quindi mi consente di attaccare più pippa io, no. Ma comunque di esprimervi la mia gioia nel rimettere a posto dei tasselli. Perché dico questo? Perché avete notato che ci siamo un po' divisi, ci siamo un po' segregati ognuno nel suo interesse personale, che poi sfoga qui perché questa comunque è radioterapia. Era già caso? Così prima. Sono 63 anni che andiamo avanti così. Una e dopo 63 l'anno. Anni di 100 Celle Avengers, ricordandovi che questa è una trasmissione che parla di musica e supereroi, siccome di musica non volete parlare perché mi sembra che sia una cosa banale, volgare. Parla per te. Forse volgare per qualcuno. Allora ecco. Ci rimangono i supereroi. Ma i supereroi minori. Perché? Perché anzitutto i maggiori dobbiamo anzitutto spiegare che non stiamo parlando di Robin, di questi, cioè dei secondi, dei frustratoni, stiamo parlando proprio di supereroi che hanno una loro dignità, ma non hanno raggiunto il livello di costoletta grandi classici Marvel. Stai parlando dei bassisti? No. Cioè, ottimo gancio. Grazie. Comunque poteva essere una roba. Che ci penso al crossover della prossima puntata, ma in questa puntata zero io parto dal punto zero del mio vissuto, cioè quel momento in cui ho sentito di stare proprio raschiando il fondo della pentola del binge watching e ho deciso che questo disagio lo dovevo condividere, che non era giusto che solo io mi vivessi certe robe. Per cui noi adesso andremo a scavare in quella che è, la sottocultura della, quella che possiamo definire senza dubbio la mitologia moderna. Se un tempo c'erano gli dei greci, poi divenuti gli dei latini, Zeus che poi diventa Giove, che poi il culto dei santi, no? Che comunque ha fatto sì che il politeismo sopravvivesse al monoteismo. In realtà c'erano i devoti a San Gennaro, anche nei tempi che viviamo, questi tempi bui, presentano un culto dei santi. I supereroi sono in tutto e per tutto mitologia che insegneremo a Pippo al posto del culto dei santi. Sapevo che arrivavi là a qualche futuro trauma. Vabbè, di Pippo. No, in effetti Pippo lasciamolo fuori da questa cosa perché poverino ancora ne conosce due e sono di quelli senior. Approcciare a quello che stiamo per trattare forse è troppo anche per lui. Perché? Perché ho deciso di partire dal, come ho detto, punto zero, cioè dalla peggiore forse serie TV da me affrontata in questo ultimo periodo. Aia. Allora, anzitutto rievochiamo l'urgenza di fondo qual è. Io una volta vidi questa è la genesi un po' di 100 Celle Avengers, vidi The Avengers Infinity War così, okay. Decisi di vedermelo così senza avendo visto due o tre dei film. Mi ritrovai per una selva oscura di situazioni che non comprendevo, proprio fin dall'inizio del film ti trovi delle robe che sono successe che dici ma come che quello non c'hai capito, quello è morto e l'altro, ebbi una crisi della quale mi ripresi solo dopo aver visto tutti e 26, allora erano 26 film dell'MCU, Marvel Cinematic Universe. Solo allora, solo avendo esplorato la storia anche dei più insignificanti supereroi, comunque major, ero riuscito a ricollegare tutti i post-credit che mi avevano confuso la mente. e avevo anche approcciato con i due metodi di Hokuto, cioè seguire l'ordine di uscita, seguire l'ordine di narrazione della storia, che è un po' quello che diciamo che prende la gente un po' più malata, che si lascia prendere un po' la mano. Dici, ma infatti la scuola Nanto è più punk, dici, più allora, diciamo che l'ordine di uscita fa sì che i famosi post credit di cui si parlava abbiano un senso, e quindi ci sono i rimandini, i mezzi cliffhangeroni finali del film, che se tu me li guardi invece in ordine cronologico te li perdi, o comunque per dirne una su tutte, tu ti vai a vedere Capitan Marvel, che perché tratta la roba degli anni 80, per secondo dopo Capitan America, che è del 45, perché cronologicamente stanno collegati, ma Capitan Marvel è uscito nel 2019, era praticamente poco prima di Avengers Endgame, sottolineo Endgame, finisce tutto, avete rotto il e quindi cioè, non se, no, questo è un'incongruenza che la racconta lunga su poi qual è il metodo che prevale, cioè quello di uscita probabilmente. Sì, poi sì. I pazzi furiosi, ripeto, continuano a farsi delle domande, ma perché vogliono trovare le magagne, ma questo è un'altra rubrica. No, mi incuriosiva questa tua classificazione, Hokuto ordine e Nanto caos. Io però era bello, potrei averli scambiati. Scusate, io avrei bisogno di un nerd qui, per caso lo trovo? Sì, che sì. No, per carità. Sì. Sono andati tutti al bagno. E comunque c'è pure Hokuto Gemmi, C'è pure Hokuto Gemmi, è vero. Lo sapevo che era un terreno minato questa rubrica. Anzitutto, così volevo mettere i puntini sulle i. Anzitutto bisogna anche un po' dare al nerd quel che è del nerd, dicendo che questo è l'ennesimo calpestare i piedi di altre rubriche, andare a sconfinare in territori, diciamo, già percorsi da. Ma io cioè, fondamentalmente mi restringo. Recensisco soltanto serie di merda uscite dall'universo Marvel serie. Io già so dove vuoi andare a parare e penso di essere molto d'accordo. Sì, Ma me lo vuoi dire pure tu dove voglio andare a parare, che non lo so più. Cioè, nel senso. Sci. Eh? No, ok. Prego. Il curling? No. Io sto continuando a pensare a Ralph Super Maxi Eroe, però non so perché. Ma quella, cioè, quella è una cosa bella che ci riporta a Darkwing Duck, che non ce l'ha fatta, però. Beh, diciamo che vabbè, è giunto il momento di affrontare il nostro primo. La nostra prima serie. Come ho detto, ho voluto scegliere una delle peggiori serie mai vista nella mia vita. E si chiama The Inhumans. Allora, a parte che già io metterò dei voti su queste cose, quindi già musica 4, cioè mi sembra come se il compositore abbia detto: oh, ma famo quella da, no, l'abbiamo già fatta, aspetta, togli una nota, da, no, troppo, da, a posto. Sai, lasciala che hanno fatto? Così. Smarmella. Hanno sentito la radio, hanno ripreso uno stacchetto e ci hanno fatto probabile la sigla loro. E per loro fortuna non è solo su questo parametro che si muoverà la nostra valutazione, ma quindi andiamo. 4. Io tengo i voti. Andiamo. Il registro porta Ale. Virginia. Andiamo a capire di chi si tratta. Gli inumani, già questo termine che fa pensare alla barbarie, a qualcuno di dubbia moralità, o comunque di gente con usanze. Sono semplicemente degli umani con i superpoteri che se la sono vista brutta e si sono trasferiti quindi a un certo punto ufficialmente sulla Luna. Perché dico ufficialmente? Perché poi c'è stata quest'altra bella cosa, che nel mondo in cui mi sto muovendo noi in realtà siamo dei profani, degli ultimi arrivati, perché chi comanda è il fumetto, cioè la vera realtà è il fumetto. Cioè la realtà di una cosa assolutamente fuori di testa è comunque dettata non dal film ma dal fumetto che fu scritto, e quindi quelli che ci tengono veramente poi si incazzano quando il film non riproduce tutta la storia oppure ti sposta le cose. E cioè vabbè, sarebbe un elenco lungo quello delle cose che la Marvel poi ha cambiato rispetto ai fumetti anche un po' suprematisti che si leggevano in America negli anni che furono. E in questo caso comunque parliamo di diciamo di una popolazione, gli inumani, che si sono spostati. Prima stavano nell'Atlantico, dispersi nell'Atlantico, poi a un certo punto hanno visto la mala parata e se ne sono andati sulla Luna. Una su domanda. The Dark, prego. È universo Marvel. E quando è uscito? Quello è il motivo. Quando è uscito? 2017. Mai sentito nemmeno un vagamente. Ma io per nominare... quello sto facendo questa cosa, perché so che per voi esiste così. Soltanto Daredevil che ha cominciato questa storia e di cui parleremo poi nei prossimi numeri. Ma è qui che si vede il vero professionista, cioè dove andiamo a scavare proprio nell'inutile, perché poi appunto l'altro voto che mettiamo è diciamo importanza nello svolgimento globale dell'MCU, del Marvel Cinematic Universe. Okay, quindi rilevanza. Cioè rilevanza nel senso, okay, me vedo questa, capisco perché ha detto quello quella volta. Bene. Cioè è assolutamente ininfluente quello che gli inumani decidono di fare. Però altra domanda, ma si svolge in che periodo storico? Prima, dopo Endgame, un pezzo prima, nel 500, allora, dei tempi? Allora è giusto che tu mi faccia queste domande, anche perché ho parlato appunto dell'ordine della narrazione, l'ordine cronologico. Praticamente molti di questi prodotti della Marvel Television prendono le vicende da questa famosa battaglia di New York, che io vorrei che piano piano la sapessimo bene, come la battaglia di Poitiers, cioè quando ti dicono la battaglia di Poitiers, 763 Carlo Martello che ferma l'avanzata islamica, quella dove fanno la posa. Uguale, cioè, esatto, la battaglia di New York è quella dove fanno la posa e poi fanno tutti i danni che gli vengono accollati nei seguenti film. Quella con Hulk spacca, tipo. Hulk spacca, sì, c'è tutto quello che ci deve essere più o meno, quello che non c'è qui. Perché appunto, ripeto, essendo ininfluente è anche ininfluito, proprio degli avvenimenti della battaglia di New York in realtà agli umani interessa poco. Interessa agli umani perché... Comunque pare che solo in quel momento si siano accorti che c'erano un sacco di genti dotate di poteri e quindi anche questi inumani cominciano a fioccare come i funghi, gli umani gli danno la caccia e gli inumani si rifugiano, come dicevo, sulla Luna, on the dark side of the moon. Che io pensavo, ma come? Ma poi se gira, cioè se vedono, e invece no, la Luna mostra sempre, se no non ce lo facevano il disco di Pink Floyd, no? No? Voglio dire, e poi dite che non parliamo di musica qua, ok. Dopo arriva l'astrologa, te lo spiega meglio. Quindi gli inumani sono la famiglia reale di questa, cioè no, gli inumani sono tutti. Le vicende di Inhumans narrano la storia della famiglia reale della città di Attilan, flagello di Dio, no, Attilan, che è appunto questa città creata sulla Luna, dove la famiglia reale è vittima di un colpo di Stato. Ovviamente sto spoilerando i primi 10 minuti. È bene anche stabilire le regole di ingaggio per non perdere subito tutti i fans potenziali che potrei avere. E quindi, come all'Umbria Jazz, i fotografi accreditati possono scattare foto soltanto nei primi 3 brani della... anche io cercherò, senza riuscirci, di spoilerare soltanto gli inizietti. Gli inizietti è, diciamo, la situation comedy. Peccato, infatti, perché ma volevo vedere, ma è incuriosito. No, vabbè, comunque ti incuriosirà abbastanza. Ho un'altra domanda. Quanti sono sti Newman? Sono 5 o so una popolazione? Io pensavo che erano tipo i 6 Avengers che no, scappavano. Allora, sono una popolazione, okay. Però... poi quelli che contano veramente sono 4-5, quelli che andiamo a sviscerare quest'oggi sono appunto la famiglia reale, cioè coloro che al momento in cui c'è stato il colpo di Stato ad opera di Scar, lo zio cattivo, vengono appunto spodestati e si ritrovano a dover diciamo rimettere le cose a posto. Ce la faranno? Non ce la faranno? Intanto vediamo chi sono. Allora, anzitutto parliamo del sovrano di Attilan, cosiddetto Black Bolt, in italiano la freccia nera, che non è quella freccia nera lì, è un supereroe dotato di voce ultrasonica, quindi un ultrasoprano, è un supereroe che uccide con la voce, praticamente. La canta sua arma malissimo. La sua arma è la voce, quindi potete capire che già il team ha intrigato. Comunque andiamo a vedere. Il problema è che, cioè, non è un supereroe che tiene sotto controllo il suo dono, tipo, cioè, non può parlare, cioè se parla fa un casino. Per cui lui è muto. Cioè, se dovessi parlare, fare un casino. Cioè, questo è tutto un po' non il tema. Non mi fa parlare. Che, quindi lui è muto. E, e quindi, cioè, tipo Mario Brega. A cornuto. Viene interpretato, perché solo lei conosce i segni, da sua moglie. E sua moglie Medusa. Ora, prima di parlare di Medusa, che comunque è uno dei miei preferiti, uno dei motivi per cui poi ve ne sto parlando, andiamo a vedere anzitutto i cugini di Black Bolt, che sono, che costituiscono un po' la guardia reale. Quindi abbiamo Gorgon. Gorgon ha un potere, diciamo, su un solo arto, cioè praticamente c'ha uno zoccolo. Ha uno zoccolo su una delle due gambe. Con questo zoccolo lui può, sbattendo la terra, far vibrare la terra e combattere così. Quindi il piede ungulato. Cioè, diciamo che fino a un certo punto sembra uno qualsiasi che mena, sì, non mena, boh, via le botte, ma a un certo punto caccia un zoccolo e fa vibrare la terra. L'altro, meglio, perché questo comunque un po' come fantasia era un po' carente. L'altro è Karnak. Karnak, che mi è piaciuto molto anche un po' filosoficamente, perché è dotato del potere di prevedere, non come veggente, ma come un freddo calcolatore di situazioni, come andrà una certa cosa. Cioè, lui si trova lì per lì con uno che gli sta per sparare, l'altro che lo sta per accoltellare, e lui si fa tutti i calcoli con calma, come se fosse, diciamo, lo scoiattolo della gang del bosco. E valuta tutte le situazioni e adotta la strategia migliore. Grande. Questo ovviamente è il suo preferito. Ecco, fra. Sì, è il pragmaticone, che poi ovviamente non mancherà di essere messo in crisi da questa cosa, ma questo ve lo risparmio. Diciamo, torniamo a Medusa, che è un po' il momento di culmine della fantasia, voto fantasia, cioè anche. Beh, oddio, non, cioè, sarà Medusa molto... tutta sta fantasia già, no, c'era appunto Medusa già mi va a prendere un personaggio della mitologia. Beh, Medusa, quella Medusa abbastanza inflazionato. Okay. Quale Medusa? Quella mitologica, cioè quella... No, vabbè, non c'è quella del mare, c'è, no, quella mitologica, mare, sì, no, c'è quella, no, mitologica, quella alla quale tutti pensano, ma poi ovviamente se è una supereroina del futuro futuribile sulla luna non sarà esattamente lei. È dotata di capelli che menano. Ah, menano proprio, non sono serpenti. Cioè, praticamente ha una foltissima capigliatura, di quelle che arrivano proprio sotto alle chiappe. E quando deve fare botte si gonfia tipo Karate Kid, e con sti capelli mena, schiaffeggia. Quindi... Ricordiamo, facciamo un servizio pubblico: Medusa non menava coi capelli, ma ti pietrificava con lo sguardo. Esatto, no, appunto, volevo dire che di Medusa hanno preso, sì, l'aspetto, diciamo, fisico, manco tanto, e hanno fatto questa bellissima cosa. La sorella di Medusa, mi ero dimenticato, che è Crystal, semplicemente così maneggia i... Cioè, lei spruzza acqua, fuoco, cioè, così, a lei hanno dati tutti. Quell'altro è uno zoccolo, uno con i capelli che menano, uno che non può parlare, ma a lei gli hanno dato i quattro elementi. E quindi, vabbè, se però non serve è manco fulmine, la regina, serve... è la sorella. No, è la regina. Sorella della regina. La regina, tornando per un'ultima volta, perché veramente ci tengo, come, cioè, c'è stato un colpo di stato, vi ho detto, quindi vengono un attimo neutralizzati i componenti della famiglia reale, tra cui Medusa viene arrestata. Ah. E che, come fanno i cospiratori a immobilizzarla e a toglierle i poteri? Vabbè, attenzione. Era facile. Dove stanno quelle belle macchinette che si usavano? No, con la macchinetta no, va bene? Oh, mettetevi un po' d'accordo, tagli, non dagli. Se questo prende la macchinetta, io prendo l'autobus e me la da casa. Ah, sì, sì. Io l'ho trovato un momento assolutamente topico della, cioè, sceneggiatura, come Sansone, Marvel. Come... E quindi a Medusa, cioè, vengono così tagliati i capelli sempre nei primi frame della serie. Uh-huh. Per cui niente, mi rimane soltanto da dare il voto al cliffhangerismo di questa serie. Quanto ogni puntata ci porta a volerne vedere subito un'altra. Il cliffhanger è quella cosa che diciamo fa succedere una tecnica cinematografica per cui succede qualcosa all'ultimo della puntata che ti lascia ecco. Inhumans invece ha scatenato in me delle riflessioni del tipo: ma non sarà il caso che smetto proprio di vedere la TV? Cioè, comunque riflessioni anche un po' più ampie, non solo su Inhumans, ma proprio sulla mia vita, su come sto buttando tutto quanto. E quindi forse a cliffhangerismo darei due. Non mi ha dato il voto fantasia, però. Non ti ho dato il voto fantasia, no, che comunque era 3. Ma che voto fantasia? Hanno preso i poteri al discount? Ah, sì, non vi ho detto che c'è la terrigenesi, che è un po' il fenomeno attraverso il quale gli inumani assumono i loro poteri. Quindi c'è un momento in cui viene stabilito se tu hai dei buoni poteri e entri nella corte, oppure vai in miniera. C'è un sistema a caste leggermente rigido, per cui esiste solo un settore terziario, la miniera, per cui gli Attilan stanno nella corte o stanno in miniera perché hanno dei poteri inutili, insomma, peggio di avere uno zoccolo solo. Infatti ci stanno pure tutti gli altri che hanno i poteri. Quello, ma... con lo zoccolo è diventato capitano delle guardie, però se non c'è manco quello. Pensa là, quello che va in miniera c'è il potere di dire ehi ho. Io il mignolo ruvido, che ne so. Comunque questa cosa mi ha ricordato. Io ho i capelli. Avanti così. Mi ha ricordato l'uomo pentola di Ratman, che aveva il potere di dirti quando bolliva l'acqua. Oddio, molto bello. Ma io vi giuro, io non ho mai sentito i Inhumans. E se è del 2017, io l'ho anche messo in una lista in cui non ho mai. Cioè, non l'ho mai tirato fuori. Vabbè, adesso sai anche perché. Ma è strano che non l'ho pescato, perché io pensavo, quando ho detto so dove stiamo andando a parare, pensavo che stavi andando a parare su She-Hulk. Che comunque non mancheremo di trattare. A un certo punto arriverà. Sì. Quello è il programma The Good Wife Hulk. Quindi alla fine faremo tipo un Oscar di tutte le categorie. Madonna, delle serie brutte. Esatto, tipo. No, per categorie, proprio per queste votazioni. Sì. 4-8. Allora andremo comunque. Non so, ribasso o rialto, cioè non so qual era più bello. Andremo comunque a salire, andremo anche a esplorare pezzi di vita, diciamo, di supereroi interessanti o comunque resi interessanti ai nostri occhi. Ma non è questo il giorno. Questo è il giorno in cui ho perso il pezzo in cui con cui allorché volevo concludere questa bellissima rubrica di cui tutti avevano bisogno. Possiamo dire la media dei voti, come su IMDb possiamo fare il nostro personale, e qui abbiamo una media del 2.75. 2.75. Beh, che comunque supera Biancaneve su IMDb, che c'ha 2.2. Non mi è andata male comunque, insomma, questa Inhumans. Bello, bello. Cioè, il tempo di vedere. Ah, comunque un'altra cosa che dà molta speranza è che sono solo 8 puntate, perché comunque anche quella è importante. Finite, perché dal 2017 se ne ricacciano una fuori 9 anni dopo, io mi arrabbio. E quindi io in totale crisi con me stesso, con i miei import export di cose avrei una proposta. Vai. Cantiamo. Allora, anzitutto abbassiamo il sottofondo, mettiamo una sigla qualsiasi. Ricordati di te com'eri prima. Pure estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Pure estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Pure estate fa. Messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Pure estate fa. Ricordati di me. E mentre ci sta l'ennesimo problema tecnico, io con questa sigla volevo dirvi che ci spostiamo in Centocelle a Marcord, perché sì, abbiamo beccato proprio un pezzo che mi riporta sempre in evidenza il vecchio Devil, e cioè colui che vanta ad oggi 4 stagioni di serie televisiva tutta sua, per cui è ancora in testa alla classifica, forse è l'unico che ha avuto un senso, forse è l'unico che possiamo dire alla costoletta dei grandi classici Disney come Lillo il Vagabondo e Cenerentola. E quindi andiamo a sentire Bring Me to Life. Oh. Però fatta da noi, capito? Cioè, quella, c'è Biascicone. Sempre in diretta su Radio Forte 100 c'è l'Avengers. Quando pensi che Virgi stia per entrare in voce, invece no. È arrivata Giulia, portate pizzette, fammi finire masticare e poi... Un applauso alle pizzette, un applauso all'Astroloca. Ciao Astroloca, bentornata. Farti voler bene devi sempre dare cibo. È vero, è verissimo. Bussa coi piedi. È verissimo, c'è chi porta il vino, c'è chi porta il cibo. Ah, il vino, sì. E, bello, sono ancora un attimo scossa. Dai cori, Bring Me To Life. Io colpo basso. Chiedo perdono. Mamma. Che bravissima. Sì, sì, è vero, è vero. Li ho drogati prima di fargli sentire questo pezzo. E niente, oggi ci occupiamo di una rubrica che non prendiamo in mano da un po' di tempo, che è CSI 100 celle. Quindi parliamo di crimini E nello specifico oggi ci occuperemo della vera vicenda che ispirò una ballata che ha fatto la storia della musica italiana. Questa di Marinella è la storia vera che scivolò nel fiume a primavera. Maestro, sigla. Alle ore 16 di domenica 24 agosto io ho ucciso la signora Augusta Terzi con fredda determinazione. Si ricorda quella signora in via del Tempio che è stata uccisa? Beh, l'ho uccisa io. Sono un assassino. Mi guardi, non capita tutti i giorni di vedere a 20 centimetri di distanza la faccia di un assassino. Eccoci tornati. Ah, sì, perfetto, perfetto. Prima mi sentivo poco, ora mi sento benissimo. E, ma c'è per caso la possibilità di mettere un sottofondo triste o è meglio non toccare niente? Assolutamente, devi oggi, solo dirlo. Grazie, oggi è veramente una presa a male, mentre lo scrivevo, mentre ci pensavo, una brutta presa a male. Non me ne fa pentire però, Va bene, allora metti quello prima. I sottofondi azzeccati, esatto. Tipo qua puntata di viola col sottofondo le pacche. Ma mia, che camera di otto camera. No, ritorniamo seri, veramente. Cioè, ci tengo a dare un po' di serietà a questa cosa anche dopo Bring Me to Life. Allora, iniziamo questa tragica storia in un contesto goliardico, ma è veramente triste. Allora, nel 1955 un Fabrizio De André, 15enne, lesse un trafiletto su un giornale che lo colpì per tutta la vita. Il 28 gennaio 1953 era stato trovato un corpo nel fiume Olona, tra Rho e Milano, da parte di alcuni operai che si trovavano sulle sponde del fiume. Sei colpi di pistola la attinsero prima che venisse gettata nel fiume, probabilmente ancora agonizzante, e quando De André ne lesse la storia si conosceva già gran parte della vicenda. Il corpo apparteneva a Mary Pirimpò, vero nome di, scusatemi, alias di Maria Boccuzzi, una ragazza calabrese di 33 anni che usava il suo pseudonimo per fare la ballerina nei nightclub. Ma non solo. Indagò più a fondo e si scoprì che la povera Maria aveva avuto una storia travagliata. Era partita per il nord. Ecco, ora c'è qualcosa che è successo con le cuffie. Ok. Era partita per il nord con Mario, ragazzo senza arte né parte, di cui la famiglia di lei non si fida affatto, e per questo furono costretti a scappare per coronare il loro sogno d'amore. Sta di fatto che Mario la abbandona dopo solo un anno e Maria si ritrovò sola e senza famiglia, finendo prima a fare la ballerina di notte, finché non venne introdotta nel giro della prostituzione da tal Luigi Citti, protettore, che la passò, anzi la cedette, ad un uomo violento, Carlo Soresi, detto Carlone, noto protettore che gestiva il traffico della prostituzione tra Firenze, Torino e Milano. La nostra Maria, già provata dall'abbandono a nemmeno 20 anni del suo primo amore e per questo costretta ad una vita di stenti, iniziò finalmente a ribellarsi sotto l'egida di Carlo Soresi. Le violenze che subiva le fecero ripensare alla sua famiglia e dentro di lei nacque il desiderio di una vita più regolare e di un riavvicinamento con i suoi familiari, cosa che non poteva passare inosservata per il suo protettore, ovviamente. Ed ecco che, dopo il ritrovamento del corpo, nonostante delle indagini non esattamente accurate, si fecero strada 3 piste. La prima incluse Luigi Citti, il suo primo protettore, interrogato a lungo ma scagionato dopo non molto. La seconda implicava proprio Carlo Soresi. Si pensava ad una punizione esemplare per evitare altre ribellioni, ma si pensava anche che Maria avesse visto o sentito qualcosa di compromettente che le valse la vita. Ma si fece strada anche un'altra pista, assolutamente più vaga, indicata da un metronotte, che la sera della scomparsa della ragazza vide una donna in un'auto scura che si dimenava mentre veniva portata via. E qui purtroppo noi ci fermiamo, perché Maria Boccuzzi non ebbe mai giustizia dalla giustizia. Al tempo, come se oggi sia cambiato qualcosa, la morte di una prostituta non faceva così tanta notizia e le sue indagini venivano viste come una perdita di tempo. Ma qui arriva il nostro paladino. De André lesse la storia un paio di anni dopo, come dicevamo, senza troppi particolari. ma divenne ossessionato dal provare a dare a questa ragazza una conclusione pacifica, morbida o, come disse lui, la storia di quella ragazza mi aveva... Posso avere il riverbero per Cida? Che bello, è il mio primo riverbero. Eccomi qui. La storia di quella ragazza mi aveva talmente emozionato che ho cercato di reinventarle una vita e di addolcirle la morte. L'abbandono di Mario, che la costrinse ad una vita lontana dalla sua famiglia, viene trasformato nella solitudine che la ragazza prova, senza più il ricordo di un amore. La vita di Maria come prostituta viene citata, con delicatezza, quando dice c'era la luna e avevi gli occhi stanchi. Tutto qui, nessuna morbosità. E l'assassino, mai trovato, viene definito un re senza corona. Ma è la morte di Marinella la parte più compassionevole. Nella ballata, la ragazza, dopo un momento di intimità sulle sponde del fiume col suo re senza corona, subisce un incidente. Posso riverbero un riverberino? Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume, chissà come, scivolavi. Questa non è solo una rivisitazione, ma è una pacificazione di una vittima di un probabile femminicidio a cui De André fece il regalo di una morte nuova, meno traumatica, meno deludente per la ragazza, che non si trovò di fronte a un probabile aguzzino di cui probabilmente si fidava, che doveva a suo modo prendersi anche probabilmente cura di lei. Le fu risparmiato il trauma di vivere quelle che vennero all'epoca viste come le conseguenze della sua vita sregolata. Le risparmiò il giudizio della gente e dell'opinione pubblica e le fu reso possibile onorare la sua dolcezza e la sua tristezza, che nonostante tutto traspare nella ballata sia nel racconto della sua morte che della sua vita. E allora riprendiamo De André, che già dal principio della ballata ci dà un indizio su come sarebbe andata a finire la storia della vita e della morte di un nome su un trafiletto che non ebbe mai giustizia, se non da un menestrello. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella. E ora ascoltiamo direttamente lui. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore. Vivevi senza il sogno d'un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna e il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue un aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle. Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi, è lui che non ti volle creder morta, bussò cent'anni ancora alla tua porta. Questa è la tua canzone, Marinella, che sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose. E alle 2.33, visto che Virginia mi ha rubato il lavoro, perché ha fatto il suo canta responsabilmente praticamente. Ma è crime. Sì, è vero, questo è crime responsabilmente, quindi uccide responsabilmente. Se c'è, qualche morto deve andare là dentro a quella rubrica per forza. Vero, ok, terremo le cose separate. E visto che è così, allora lanciamo il nord del nerd. Maestro, mi manda la... Lo dico piano. Sigla! Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il radio porta il centro celle Avengers. C'è una rubrica sotto che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nord del Nerd! Nord del Nerd! Nord del Nerd! Nord del Nerd! Nord del Nerd! Oddio, che emozione, era tanto che non la sentivo. Beh. Era tanto che non vi dicevo benvenuti piccoli nerd. No. Oggi torniamo alle vecchie abitudini e a parlare delle nostre care nerdate. Quando uscì lo spin-off di Game of Thrones, House of Dragons, mi domandai da brava fan dei libri, ma perché invece di andare a pescare la storia di un Targaryen a caso, non hanno realizzato una serie sulle storie di Duncan e Egg? Esiste infatti un libro tra quelli satelliti di Game of Thrones che si chiama Il Cavaliere dei Sette Regni, che comprende tre racconti molto godibili che trattano le avventure del Cavaliere Duncan l'Alto e Egg, il suo scudiero. Egg è segretamente, non è spoiler, sono i primi 10 secondi, un Egon Targaryen bambino, affidato da suo padre Maegar al cavaliere errante Dank perché lo porti con sé in giro per i Sette Regni, in modo che possa vivere da suddito la realtà di un regno che un giorno dovrà governare, insomma, per farsi le ossa. Niente di nuovo, eh? Te lo ricordi il cartone degli anni Ottanta, l'Invincible Shogun, dove un vecchietto andava in giro con due samurai? Madonna, che ha tirato fuori. Con questi due samurai dell'aria pezzente, l'uno formato la montagna e l'altro secco e alto, che vivevano le loro avventure nell'antico Giappone e che a fine avventura tiravano fuori la scatolina delle medicine dell'imperatore con sopra il simbolo imperiale al grido di inchinatevi di fronte allo shogun Mitsukuni Mito. Voi ricordate? Brividi. Madonna. Sì, ma ragazzi, è anche la storia dell'ultimo imperatore del film. Sì, quello dove c'è Romolo Augustolo. Wow. Yeah. E sì ragazzi, quella cosa che il samurai mostrava era un inro, una scatolina che solitamente in Giappone si usa per i sigilli o i medicinali. Comunque, la storia è fondamentalmente la stessa, il regnante che si mescola al popolo per vivere quel punto di vista, invece che guardare il regno dall'alto di un trono. Ecco, il 19 gennaio questo sogno di vedere in scena quella storia è diventato finalmente realtà, con l'uscita della serie TV su HBO e Night of the Seven Kingdom. Non l'ho ancora vista, quindi non posso fare spoiler, anche il volendo. Il mio pinguino di ceramica nello studio. Ma sì. È partito un pinguino di ceramica. Così. Così. Quindi non farò spoiler, ma soprattutto non ne fate a me, anche se qui c'è qualcuno che storicamente potrebbe ancora volere vendetta, vero maestro? Se la ricorda, ma questo se deve ancora vedere Game of Thrones, stai fresca, tranquillissima, guarda proprio. Quindi gli sto spoiler a tutto proprio? Sì. Bene, a vendetta posto. Triplicata. No vabbè, ma non ho detto un cavolo di spoiler, cioè ci sono stata molto attenta. Comunque, Egon Targaryen ritratto in questa storia non è Egon Targaryen che pensate voi, fan, che ne sapete una più del diavolo, di quelle cose che non posso dire se siano spoiler, ma un Targaryen vissuto 90 anni prima la saga ufficiale. Il collegamento esiste, però pure quello è mezzo spoiler, quindi per fare contenti tutti ci trae solo che a un certo punto Brienne di Tarth si fa disegnare sullo scudo lo stemma di Dank perché l'aveva visto nella bottega del padre. Virgi, vuoi dire qualcosa? No, però è presente. Eh sì, però non si può dire perché bene. Poi è spoiler. No, certo. Quello. Certo. Quindi a questo punto, per tornare al nostro argomento preferito, maestro, si prepari, cioè la musica, c'è un pezzo particolare della soundtrack di Game of Thrones che adoro, che si chiama The Rain of Castamere, no, le piogge di Castamere, suonato nel penultimo episodio della terza stagione, quando le porte della sala si chiudono sulle nozze rosse. Non dico niente. Quali nozze rosse? è solo un nome, appunto. Tra l'altro questa cosa suonata da una band di sala in cui per un attimo viene inquadrato Will Champion, cioè il batterista e backing vocalist dei Coldplay. Sì, stava lì a fare il cameo. Grande. E visto che mi piacerebbe parlarne da un certo punto di vista, maestro, ti chiederei la sigla. Oh Gesù. Oh Gesù, troppo presto. No, l'ho fatta troppo a stop. Però t'ho avvertito 5 minuti fa. Lo so. No. Lo dico io di cosa parla Lecky Vergine. Parla di una ragazza che rimorchia uno con una fava così. Cazzo stavo dicendo? Hai detto che True Blue parla di una ragazza sensibile che conosce un bravo ragazzo, invece la Like a Vergine è una metafora della fava grossa. Ah sì? Sì, fate perdere il filo. Sento solo la melodia, non è col te. Sto, ma scopro cosa dite e dire. Sto male un po'. Per esempio con Sting, Sting, Sting, ti cantavo Every Clap You Take. Prima di scoprire che parlava di uno stalker e di un amore classico. Cantare responsabilmente. Da piccolino quel motivo mi piaceva di più. A rovinare i miei ricordi mi ci mancavi tu. Cantare responsabilmente. Della parola tu fan e buon uso. Che bellezza questa sigla, non finirò mai di dirlo. Evviva le sigle brevi! Ed era live! Bravi noi! Erano 8 minuti, praticamente solo di sigle, ho rubato mezza puntata a stavolta. Evviva noi! E beh, ha finito. Bene, prossimo. No, ancora un altro. No, dimmi, allora, dimmi. Il testo delle piogge di Castamere è di George Martin, scritto durante la stesura dei libri nel 2000. Fu aggiunta poi la musica nel 2011 da Ramin Djawi, il compositore della soundtrack della serie TV di Game of Thrones. La canzone racconta la spietatezza del personaggio di Tywin Lannister, non è spoiler, queste sono cose successe nel passato, nel distruggere casa Rhaen di Castamere, dei vassalli ribelli di casa Lannister circa 40 anni prima gli eventi narrati nei romanzi, il cui messaggio in sostanza è: così finisce chi sfida i Lannister. Maledetto! Sì, i Lannister non gli devi cagare. Nella storia dei Rhaen, dopo che questi ultimi avevano osato sfidare l'autorità dei Lannister smettendo di pagare i tributi dovuti, e dopo l'attacco subito dai Lannister, quando i Rhaen si rifugiano nelle miniere sotto il loro castello, Tywin fa deviare un fiume all'interno, annegando tutti i presenti, uomini, donne e bambini, annientando di fatto tutta la loro stirpe. Nella canzone l'idea quindi delle piogge che piangono sulla sala è un'immagine macabramente letterale. La canzone che viene usata o solo strumentale o cantata più volte nella serie, in varie occasioni e in varie versioni, tra cui una di un gruppo molto famoso. Virgi, che dicevi di sapere tutto su Got, chi erano? Un gruppo molto famoso? No, mi ricordavo che la fanno... Non so quanto sono famosi, però... La fa il batterista, poi la canta Bron a un certo punto. Sì, quello è un altro punto. E poi... C'è praticamente al matrimonio di Joffrey, vabbè, sì. È vero, ci stanno delle persone che la cantano. È vero, dimmi un po'. Che la cantano e la suonano, e sono i Sigur Rós. Ma che, davvero? Sono proprio loro, fanno il cameo. I Sigur Rós sono un gruppo musicale post-irlandese, post-rock irlandese. Isla. E in una, penso, delle uniche tre occasioni, ho visto, cioè l'hanno fatto solo tre volte stavolta, questa cosa, in cui hanno fatto un pezzo in inglese. Perché i Sigur Rós sono famosi proprio per l'uso di un linguaggio tutto loro, che si chiama Volenska, in inglese spesso detto Oplandic. che è praticamente in un certo senso la nemesi di Canta responsabilmente, perché è una lingua fatta di suoni, non un idioma vero e proprio, non ha un vocabolario stabile, non ha una grammatica fissata, bensì è tutta una sorta di vocalizzazioni senza parole, costruite con sillabi e fonemi che suonano un po' nordici, ma in realtà non significano niente. L'obiettivo di questa cosa è proprio distogliere l'attenzione dal testo per concentrarla sullo strumento voce, dimostrando che se usata a modo, la voce può trasmettere emozioni anche senza avere parole, senza veicolare un significato preciso. Non ci credete? Andatevi a ascoltare Glosoli dei Sigur Rós e poi mi direte se non vi è scesa una lacrimuccia, anche se il testo non significa un cavolo. Glosoli. Un'altra cosa interessante è che nella serie, durante il matrimonio di Geoffrey, The Rain of Castamere viene proprio suonata dai Sigur Rós, che appaiono in un cameo, in cui tra l'altro c'è un'altra particolarità musicale, cioè gli strumenti che usano. Uno è una concertina, una mini fisarmonica in versione medievale, ma l'altro, cioè ragazzi, è una cosa veramente bizzarra. Ieri stavo riguardando la scena e mi sono detta, ma questo che cos'è? Quindi io vorrei fare un gioco con voi. Ragazzi, prendete i vostri telefoni, andate sul gruppo Telegram e adesso vi mando la foto dell'oggetto misterioso numero uno. Che sarebbe, proprio così, maestro, eh? Questo qui. Cioè, secondo voi che cos'è? Io ho visto il video e ho fatto, madonna, ma che è stato questo attrezzo? Allora, un pezzo di cornamusa dentro una zampogna. Scatola di zampogna. No, vabbè, stessa cosa. Sì. Ah, sì? No. È una ciaramella. Una che? Una ciaramella. Che cos'è la ciaramella? Con una scatola. La ciaramella è tipo una zampogna. No, in realtà, cioè, ragazzi, è un organo. Cioè... un organo. È un organo, cioè, che dietro organo gli del fai corpo, tipo un fegato. L'organo umano, tipo. No, è proprio un organo a canne. Praticamente in questa scena due dei... col bambù! Simone, grande, Simone risponde sul gruppo Telegram, sembra un mantice. Simone, hai ragione, è un mantice. Perché dei due Sigur Rós che suonano, uno suona una tastiera. Se ci fate caso sull'immagine ci sono pure delle canne di legno. E mentre uno usa la tastiera, l'altro manovra un mantice, pompando aria nell'oggetto. Signore e signori, quello che vedete in questa scena è un organo portativo. Praticamente è un mini organo portatile. Io, vabbè, questa magari è ignoranza mia, però io non lo sapevo, ma l'organo a canne, quelli della chiesa, effettivamente hanno bisogno per essere suonato di un flusso d'aria costante, come un flauto o una cornamusa. Adesso non ce ne rendiamo più conto perché gli strumenti moderni hanno dei sistemi elettrici per fare questa cosa, ma gli organi antichi necessitavano di una persona che si occupasse proprio di pompare aria nello strumento. Cioè, il povero Cristo stava lì a pompare il mantice mentre il musicista manovrava la tastiera, perché solo così la pressione dell'aria che veniva pompata poteva rimanere costante e il suono non si indeboliva o diventava intermittente. E so che è un po' la puntata delle digressioni questa, ma ogni volta che vado a fondo su un pezzo spuntano dei retroscena pazzeschi tipo questo, e spero che scoprire queste curiosità piaccia a voi almeno quanto piace a me. Per chiudere, come da tradizione di Canta responsabilmente, vediamo cosa dice The Rain of Castamere. E chi sei tu, disse l'orgoglioso signore, per cui io devo inchinarmi così profondamente? Solo un gatto con un manto diverso, questa è tutta la verità che conosco. Con un manto d'oro o un manto di porpora, un leone ha ancora i suoi artigli e i miei sono lunghi e affilati, mio signore, lunghi e affilati come i tuoi. E così parlò quel signore di Castamere, ma ora le piogge piangono nella sua sala, senza nessuno più lì ad ascoltare. Sì, ora le piogge piangono sulla sua sala e non c'è più anima viva ad ascoltare. Sono dei mostri! Ma come fa? No, bellissimo. No, ogni volta che la sento mi fa piangere. E con questo vi lascio con una versione di questo pezzo che non è quella dei Sigur Rós, quella andatevela a sentire per conto vostro, studiate, ma con un'altra versione peculiare, perché ne hanno fatte 800, realizzata per la colonna sonora dell'ottava stagione, quindi mai mandata in onda ma soltanto per la soundtrack, cantata niente poco di meno che, ragazzi, da Serj Tankian, cantautore e polistrumentista dei System of a Down. Maestro, mi mandi The Rain quello of di Gigi Castamere. La Trottola? Esatto, lui. Sì, proprio lui. Sì. Ha collaborato pure Serina, gli ha fatti i cori. The Rain of Castamere. Wake up! And who are you? The proud Lord said that I must bow so low. all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. Mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear. Forte, 100 Cielo Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, dopo aver sentito i System of a Down che cantano Game of Thrones. E facciamo una piccola precisazione, perché prima l'ho pronunciato male, i Sigur Rós non sono irlandesi, sono islandesi. Ma te la potevi giocare che l'avevi detto, dai. Cioè, vabbè, insomma, mi hanno cazziato dalla regia. Post-irlandesi sarebbe stato bellissimo. Post-irlandesi. E è il momento comunque delle precisazioni, quelle vere, proprio della gente precisa che lavora con i numeri. Vabbè. E quindi passo la parola a The Beautiful Mind, Franci. Allora, oggi in realtà, visto che abbiamo parlato di Islanda, in realtà lo spunto per questa puntata riprende un po' il freddo dell'Islanda, perché non perché parli di Islanda, ma perché prende spunto dalle Olimpiadi invernali attualmente in corso, e pensate un po' anche un po' dall'universo della nostra scuola di musica. Non se ne parla niente. Attualità su attualità. Siete curiosi? Madonna. Occhio, ma che oggi interrogo pure, Sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica, e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io. E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma. E poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, interessa. Lo spieghi. Che grande batterista Danny Gave, quanto era bravo, ragazzi. Che grande batterista Nanni Moretti. Che grande. Ah, Nanni suonava quel pezzo con i Tool. Sì. Potrebbe essere. E allora, cari indici di Witt, che a dirvela tutta non ho mai capito cosa diavolo fosse sto benedetto indice di Witt. Aspetta che te lo spiego io. Benvenuti a Grand Hotel Hilbert, la rubrica che come password della sua wifi sceglie sempre un numero che sia soluzione di un complicato calcolo algebrico. Così. Ah, no, rubrica. Rubrica. La rubrica? La rubrica, la password. No, la rubrica è come password della sua wifi. Oddio, che ho detto? Ho sbagliato. No, niente. Mi sono emozionato. Rovinare tutto. Era una citazione dal Louvre. Ah, ok. Anzi, mi si è spento tutto qua. E vabbè. Mi hai fatto emozionare, è finita così. La puntata di oggi prende spunto da un qualcosa avvenuto nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali in corso a Cortina. Mi riferisco in particolare al fatto che Mariah Carey abbia cantato, prego maestro, c'è cioè il contributone. Poi d'improvviso venivo da vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Che poesia, eh? Che grande. Rapeto. Grande. Quindi, penso che voi tutti abbiate riconosciuto nel blu dipinto di blu del grande Modugno di Mariah Carey. Ah, esatto. No. Era suo. Ah no, niente. Allora, perché prende spunto da questa cosa? Perché la nostra Mariah nazionale legge il testo sul gobbo che era scritto con parole italiane, diciamo, maroccate, cioè modificate in maniera che potessero essere pronunciate correttamente da una madrelingua inglese. E così il testo volare nel cielo infinito diventa, e cito letteralmente le lettere, V-O-H-L-A-H, R-E-H, nel rimane uguale, C-H-A-Y, L O E E N F E E N E E T O E. Infinito. Questa cosa pronunciata in inglese riproduce una cosa che comunque tutto sommato somiglia a, diciamo, a un italiano. C'è da dire però che la nostra Mariah non è stata la prima ad attuare questa strategia e non bisogna andare a cercare troppo lontano. Eccolo. Perché anche il nostro allievo Medino Gianni Krevitz, salutiamo Gianni che ci segue sempre. Ciao Gianni. Ha attuato la stessa strategia nell'ultimo saggio, scrivendosi il testo di una canzone appunto del buon Lenny Krevitz con le parole inglesi come se fossero pronunciate in italiano. Attenzione, c'è una correzione subito da fare: non è stato Gianni a farla. E cioè? No. È stato il maestro a fargliela. Ah, l'ha scritto il maestro. Ha prevenuto la cosa. L'ha bullizzato. Il maestro ha fatto da funzione. Attenzione, anticipo anche l'argomento. Bene, quindi sostanzialmente ha fatto, diciamo, il maestro ha fatto e poi Gianni ha letto il contrario di quanto avesse fatto la nostra Mariah, regina del Natale. E tutto questo mi ha fatto riflettere, e questo potrebbe portarvi a dire, ma ci avete meglio da fa. Ma questa cosa è veramente possibile attuarla sempre? Mi spiego meglio. Sarebbe possibile scrivere la pronuncia di ogni singola parola di una lingua A in maniera taroccata rispetto a una seconda lingua B, in modo che la pronuncia risulti tutto sommato corretta? E soprattutto, esiste una maniera unica di svolgere questa procedura? Questo è tutto un pensiero farina del tuo sacco. Esiste un'unica maniera per... Sì, è la mia pazzia che... Aiuto. Esiste un'unica maniera per scrivere quella parola nella lingua A per sembrare una parola della lingua B? Ebbene, come disse il mio saggio professore di Anale Superiore, no. Io queste cose non le so. Esatto. Sì, per chi se lo stesse chiedendo, parlava esattamente come Staglio, assomigliava a Doc di Ritorno al Futuro, girava con un pettinino nel taschino e dopo circa 2 mesi di lezione ho capito che quando diceva Y si riferiva alla variabile Y. Bene. Ma che bello! Ma in effetti la risposta è chiaramente boh. Ilota. Ilota, esatto. Nel senso che nessun matematico credo si sia messo a fare una ricerca del genere, a meno che non voglia aspirare all'Ig Nobel. Aspetta un attimo. Vai, no, vai, come ti ci ecco. vedo. Allora, i concetti che però volevo trasmettervi alla base di questo discorso sono gli strumenti matematici utili a capire questo concetto, cioè le funzioni, i campi di esistenza e i codomini. Che cosa sono le funzioni, terrore degli studenti dell'ultimo anno di liceo scientifico? Ebbene, per spiegarla molto semplicemente e in maniera intuitiva, immaginate delle linee o comunque in generale delle forme geometriche disegnate nel piano, ok? Sì. Tracciate una linea orizzontale e una verticale che si incrociano in un punto che chiameremo origine degli assi O, e avremo il nostro bel piano cartesiano ortogonale di origine O. Qualcuno sa perché ortogonale? Se lo sapete, scrivetelo nei commenti. Dunque, ormai le butto in corner così, però la sapeva Daniele, un po'. No, ma lasciamo l'angolo retto. Esatto, bravissimo. Okay, grazie. Sono anche i piani ortogonali, non ortogonali, cioè che sono tipo vabbè. Dunque, che rimaniamo semplici. Gli assi non cartesiani. No, sempre cartesiani, però sono. Però impazziti. Sono un po', sì, esatto. Inclinati. Esatto, un po' inclinati. Stanchi. Allora, che cos'è dunque una funzione? Una funzione è, ovviamente, ragazzi, sto estremamente semplificando, ma comunque diciamo che l'idea rende il concetto. Una funzione è un disegno, immaginate come un disegno, per il quale tracciata una linea verticale, questa linea verticale incontra il disegno una ed una volta soltanto. Ok? Sul concetto di una ed una volta soltanto torneremo magari in un'altra puntata, perché è una cosa bella, forte e matematica. Per il momento, ricordatevi, incontra il disegno una volta soltanto, individuando nello spazio una coordinata sull'asse delle X e una su quella delle Y. Quindi voi proiettate, diciamo, dove si incontrano i punti e trovate le vostre belle X e Y. Tutto ciò che non segue questa regola non è una funzione. Ok, cosa sono invece campo d'esistenza e codominio? Tra l'altro c'ho pure un déjà vu, credo di aver parlato già del campo d'esistenza e funzione su un'altra puntata, ma non mi ricordo quale. Sto giro. Non mi ricordo, ragazzi, quindi dovete andare a cercare. Se siete curiosi, appunto, andatevela a spulciare. Bene, dicevamo, che cosa sono campo d'esistenza e codominio? Il campo d'esistenza non è altro che la parte dell'asse delle X coperta dal disegno, ok? O coperta o che, diciamo, sta sopra il disegno, ok? Il codominio, invece, è il contrario, cioè sarebbe la parte delle Y a cui, diciamo, il disegno o sta a sinistra o sta a destra. Okay? Fra, ti interrompo per un secondo, aspetta. Sì. Dalla diretta. Esatto. Tutto Vai. Questo. Ok. La gente non capirà, cioè già era difficile, no? Siamo tornati in non diretta, molto bene. Okay. E dicevamo, appunto, il codominio è la stessa cosa, solo sull'asse delle Y, quindi dovete immaginarvi tutto ciò che c'è alla sinistra o a destra, diciamo, voi avete il vostro disegno, se il vostro disegno sta alla sinistra o alla destra o da entrambe le parti dell'asse delle Y, quello è il codominio. Bene, ma tutto questo per dire cosa? Immaginate che sull'asse delle X ci siano le parole della canzone in italiano e su quello delle Y quelle da pronunciare in marialese, chiamiamolo così, passatemi il termine. Maraialese. No, non maraialese, ma c'è ragione. Oggi vi correggo. Già stavo dicendo non maialese, ma maraialese. No, maraialese. Oggi ci becchiamo la querela da parte del film. Vabbè. Tanto non siamo più in diretta, che te frega, sfogate. Se il nostro disegno occuperà la totalità dello spazio, sia in verticale che in orizzontale, come descritto prima, allora saremo certi che per ogni parola in italiano esisterà almeno un modo per essere pronunciato in maraialese. Qualora esistesse, in più, sempre per ogni parola, un modo ed uno soltanto di pronunciarlo in maraialese, saremo in presenza non solo di un disegno generico, ma di una funzione, cioè di un modo unico di tradurre dall'italiano al maraialese. Ma non solo, ci sono diverse casistiche alle quali possiamo incorrere, sia nel caso in cui fossimo alle prese con una funzione, sia nel caso non lo fossimo. Ma per questo adesso arriva la bellissima parte pratica. Oddio. Calla. Siete pronti? Vabbè, tanto lo facciamo molto, molto giochettino facile. Sta scartabellando, ho paura. Dico solo questo. Virginia che lancia messaggi di fa finta di non esistere più o meno. Ma avete fregato la penna, così non posso scrivere, molto bene. Ok, ha presa Virginia, guarda cazzo. Mi sono scritta SOS sulla mano. Allora, adesso vi disegno, se ci riesco. Bravo, i disegni in radio, bravo! Adoro. Ok. Puoi mandare la foto sul canale Telegram? Esatto, manderò la foto su... Sto canale Telegram. Mamma mia. Però non ci possono sentire. Faccio vedere anche a Julie. Okay. È tutto chiarissimo. Questo è il disegno. Ok? Wow. Questi sono gli assi di cui vi ho detto prima. Questa è l'origine O. Allora, secondo voi, prima domanda, questa è una funzione? Avrà. No. Sì. No? Attenzione. Sì. Lui dice sì, tu dici? No. No? Secondo te? Boh. Ebbene, no. Questa non è assolutamente una funzione. Ho vinto. Perché non è una funzione? Perché se tracciate una linea verticale, ma lei è già una linea verticale, troverete che per un valore della X ho 10.000 valori punti della Y, quindi questa non è. Però questa è la retta del piano X, X uguale costante, cioè questo tutti io. Però non è una, io avevo ragione. Non è una funzione. In questo caso, voi avreste una sola parola in italiano che però sarebbe traducibile in un'infinità di modi nella lingua, nel marajalese. Quindi pensavo che si traducevano tutte con la stessa parola. No, io sono brutto, esiste, no, esatto. quello è il punto, no, quello è, non lo so, ecco, l'ho mandato in cappella, passiamo, ha rotto Hilbert, è che lui ci sa fare con i numeri, non con le lettere, esatto. I temi io copiavo, ricordo. Allora, qual era la seconda? Già non mi ricordo. Eccolo qua, questo è il secondo. Scusate, non sono... Il maestro ha disegnato un altro grafico cartesiano. Non sono Giotto, dovrebbe essere... Un disegno falso. Adesso ha fatto una celtica. Non è una questo celtica. Questo non si manda sul gruppo. Non sono Giotto, voleva essere un cerchio. Ammazzo. Però, vabbè, fa schifo. Sembra più nell'isse. Faccio vedere anche a Julie. Francesco è Zodiac. Faccio vedere di qua. Ok. Prima domanda, è una funzione... Dai. No, sembra un ovulo più. Che non è stato fecondato. È una funzione? No. No. Tu? Non saprei, ma nemmeno di che so parlare. Daniele? Ma è l'angolo giro. Allora, vi ricordo una cosa. È una funzione se tracci una retta verticale e si incontra in un solo punto. Qua sono due, o almeno due. Tranne sento una voce alle spalle. Tranne in un punto, tranne gli estremi. Tranne cioè gli estremi. I saputelli non piacciono a nessuno comunque. Esatto. Lo so. È la funzione del cerchio che questa è l'equazione del cerchio, il disegno del cerchio che ha una sua equazione che non è una funzione. In questo caso, quante sono le parole che potremmo andare a tradurre dall'italiano al marajalese? Ma perché guardi sempre me? Che tu sei il mio avatar scientifico. Due. No. Ricordatevi la definizione di campo d'esistenza, cioè tutta la parte del disegno sovrastata o sottesa dal disegno. Quindi? Virginia si è rotta proprio. Cioè, ha fatto scrimata blu. Ecco qua. Tre. Sono questi qua. Uno, due, tre, ok. No, uno, due, tre, tutto sto pezzo qua. Quindi sono... Infiniti punti, volevo dire. Infiniti punti, esatto. Pure quello è infinito. E qual è la parte invece del codominio? Vabbè, facile, ragazzi. Quella dell'A? Quella dell'A. Questa qua. Ok. Quindi in questo caso ci avremo che ad una parola esistono quanti modi per tradurla? Due. Esatto. Perfetto. A posto? Risposto giusto. Comunque ogni volta che dici condominio mi sembra una cosa da mangiare per Pasqua. Condominio. Cibo. Adesso... E siamo al terzo grafico cartesiano, come se nulla fosse. Penultimo grafico. Meno male che lo state vedendo insieme a noi. Non... La penna. Io intanto mi scrivo sulla mano, questo not penny spot. Ok. Questa è una funzione? Sì. Questa è una funzione? Penso di sì. Questa è una funzione? Sì. Sì. Per esclusione. Sapreste dirmi quale funzione è? È il grafico dell'offerta. La curvetta verso destra. Questa è una curva, tra l'altro, utilizzata nei potenziometri. No, parabola. Vi do questa. La felicità. No, questa... No, ma so, ma guarda. Se la felicità fosse così sarebbe male. No, diciamo. Vabbè. Questa qui è la funzione logaritmica, cioè il contrario dell'esponenziale. Infatti c'ha una crescita infinita un po' rilento. Qual è il campo d'esistenza di questa cosa? Nella tua mano. Nella mia mano. Ecco. Qual è? Betta, dai, almeno tu. No, mi sono cominciato a perdermi, stranamente. No, attenzione. Vabbè, se si è persa Betta abbiamo finito proprio. Lo so. Il campo di testa, cioè le parole, diciamo, traducibili sono tutte quelle con x maggiore di 0, cioè sono da qua. Quindi io posso tradurre dall'italiano al marialese tutte queste parole e le traduco questa volta in un'unica maniera, perché è una funzione. Sì. Solo che mi perdo tutte queste parole che stanno qua dietro, queste ne posso tradurre. Quindi non c'è maniera. Ma Franci, adesso, ma veramente stai facendo? Ultimo caso. Ultimo caso, questo qui. Comunque mi voglio giustificare che mentre stava spiegando le definizioni io ero in bagno, quindi... No, senti! Questa qui è una funzione? Sì. Sì. Sembra comunque il testo dello Shrek. Ma certo che sì. Ok, sì, questa è uguale a quell'altra ma in basso. Mi sapreste dire quale funzione è? Oddio, sul lato sinistro sembra che gira, però la curva in basso a destra. È la funzione dei pesci, perché c'è un pesce che va verso su e uno verso giù. Questo è spoiler per la rubrica successiva, però. Questa è x alla terza, sappia. Y uguale x alla terza. È una parabola con lo stecco rovesciato, perché la parte prima dello zero è negativa, perché qualsiasi numero elevato alla terza da diciamo un numero negativo, quindi sta qua sotto. Questa qui è una funzione e guarda un po', questa traduce tutte le parole dell'italiano in una sola maniera nell'altra lingua. Quindi le puoi fare da de là e da de qua. Potrebbe essere la funzione che ci piace a noi nel... Chiamata la funzione Gianni Krevitz. La funzione questa, la esatto, da oggi in poi si chiamerà la funzione Gianni Krevitz. Tanto di cappello. Bene. Sono pronto per l'ignobel e bene, sì, anche sì, per sì. Oggi il vostro soggiorno al Grand Hotel Hilbert finisce qui. Ricordate di consegnare le chiavi in portineria e auguriamo ovviamente di rivedervi presto. Allora, Roma è stata sicuramente una delle città dove in questi giorni la pioggia è aumentata, giorno dopo giorno. E allora, visto che Daniele me li ha resuscitati da Master of the Rings, prima prova con la voce Andy Deris, che sostituisce Michael Kiske. Come? Questa è Where the Rain Grows, Halloween. sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers dopo questa... Oddio, in realtà... No? Non, ah, è vero. Non è in diretta. Vabbè, sono modi di dire. Sempre in non diretta. Allora, giusto, facciamo questa comunicazione. O ascoltatore che adesso non stai sentendo, quindi te lo sentirei dopo. Ascoltatore. Forse. Praticamente, per rendere più, diciamo, cliffhangeroso l'enigma di quest'oggi di Franci, abbiamo pensato di uscire dalla diretta circa alle 15, perché se no andavamo sopra a Regolamose che adesso state ascoltando. Quindi, per ascoltare la fine dell'enigma di Hilbert di quest'oggi, dovete per forza andare a beccare sul sito fortepenestrino.net/radioforte la puntata in podcast, una volta che l'avremo caricata nel 27. Caricherò in chat i disegni, così potete usufruire anche dei disegni che comunque questa volta devo dire aiutavano, eh? Eh sì, eh? Sì. Cioè, comunque a me piace molto questa cosa sperimentale, radio verità, radio... Oggi era tosta, lo dico a tutti, mi sono sentito un po', anche perché pensavo che la retta comunque parallela all'asse fosse una funzione, invece niente. In realtà la retta lo è, però quella orizzontale, la verticale. È un'altra storia. Scusa. No, è vero, non penso no. Per culo. E, detto ciò, è il momento, no, non lo so, che poi mi confondo da solo. È il momento del grande ritorno, dell'astrologa a 100 Celle Avengers, non in diretta. Quindi ha facoltà di autopresentarsi, nonché lanciare la propria legittima sigla. Beyoncé, can you handle this? Top. Ciao, sono l'astrologa di ritorno qua. Grazie, sigla. Ciao, il Ba. Noi non sapevamo a che distanza dalle stelle e cosa erano fatte. Quindi era più che scusabile per nell'astrologia. Ma oggi è ridicolo. In December, every sign has a song. Ciao. Prego. Eccomi. Emozione, allora, emozione. Vi annuncio che questa è l'ultima volta che c'è la sigla di Beyoncé, perché comunque, per quanto ci piace tutto, è una stronza capitalista, un sacco di cose, mi sta sul cazzo sempre di più. Cambiare canzoni, mo. Non le manda a dire. Quindi niente, dalla settimana prossima la sigla sarà fatta con questa bellissima canzone di Princess Nokia che sentirete alla fine di quando parlo io. Allora, oggi vi parlo del segno dei pesci, perché siamo appena entrati nel segno dei pesci il 19 febbraio e sarà così fino al 20 marzo. Perfetta, perfetta, perché domani è il compleanno di mio padre dei pesci. Eccolo. Preciso proprio. Prego, prego. Auguri, lo faremo. Sì. Che devo dire? Ah, grazie Virgi che hai fatto i capelli in tema per la mia puntata, anche se non lo sapevi. Cioè questa la mia è un'altra foto che arriverà su Telegram, i miei capelli blu. Incredibile. Quindi, niente, volevo dire questo. Questa cosa vi riguarda anche se non siete in pesci, anche se non avete un pianeta in pesci, perché comunque alla fine, quando si parla di segni astrologici, scusate, vabbè, l'italiano, ma lo sapete. In realtà si parla dell'influenza dei pianeti e quello ci influenzano tutte. E poi, se magari non abbiamo un pianeta, ma ci avete la casa, la posizione, la bla bla, alla fine l'energia va arriva. E se, non, se voi non la riflettete l'energia di questo pianeta, magari siete attratti anche nelle vostre amicizie oppure nella famiglia, avete gente intorno a voi che rifletta questa energia, quindi comunque ci avete a che fare. Quindi niente, questa, l'energia di pesci viene dal pianeta Nettuno e Giove, che praticamente ci portano proprio in altri spazi temporo-spaziali, e anche attraverso tutte le materie del mondo, ma nonché tutti i reami di chi è vivo, chi era vivo, chi ancora non c'è e di tutti gli altri pianeti, le altre galassie. Quindi se mi avete seguito in questa frase, questo è esattamente l'energia che manda il pesce, quindi provate a seguire, ma non vi preoccupate se non seguite. Intanto, solo per fare anche un legame come musicale, è una sensazione che io purtroppo ho sempre. Io sono preoccupatissimo perché Gabri è dei pesci, comunque anche mia madre. Posso, ma infatti poi direi: ah, forse la ritrovo qui. L'energia, quella cosa che arriva, arriva. Arriva tutto. Allora, dai. Parte. Comunque sarà difficilissimo fare tutto questo in 5 minuti, ma ci provo. Fai. Pesci, famosi musicisti, abbiamo Kurt Cobain, John Frusciante, Rihanna. E il preferito di Suano, Justin Bieber. Oh, top. Justin. Solo per dirne qualcuno. Comunque, dai, smetto le cazzate. Vi dico che io vorrei che siete ispirato da questa energia dei pesci per anche aiutarvi a cambiare voi stessi e cambiare il mondo. Perché l'energia che vi manda Nettuno e Giove, cos'è? La compassione, il fatto di poter essere adattabile, non essere sempre rigidi. Poter accettare l'altro anche se è diverso, avere la capacità di devozione, di proprio di occuparsi degli altri, di non essere in un egoismo, un individualismo, di usare l'immaginazione, di poter immaginare mondi nuovi e poter esplorare, come dicevo prima, tutte le dimensioni che esistono, anche le cose che sono fuori della razionalità. Quindi la cosa importante dei pesci, che spesso sono troppo dentro le loro emozioni, dentro questo mondo immaginario, perché a loro piace scappare, infatti sono dei grandi fattoni in genere, oppure magari scappano dalle emozioni distraendosi con cose, non è sempre droga, però fanno i vaghi, eh? Fanno i vaghi, fanno i vaghi. Però è importante che con questa energia abbiamo anche, con questa magia, anche la praticità delle cose reali. Perché se tu vivi di speranza, muore di fame, si dice in Belgio. E comunque, peggio, però. Se noi vogliamo immaginare un mondo diverso, ci serve anche avere un piano chiaro. Però la cosa che ci aiuta dei pesci è che loro sono il re del manifestare le cose, perché intanto immaginano, non hanno confini proprio di pensare no vabbè questa cosa ormai è sempre stata così, questa cosa non si può fare. Sì, in realtà bisogna sognare, bisogna andare verso l'altro, bisogna pensare all'altro anche, bisogna assolutamente sentire, bisogna sentire le nostre emozioni, anche questo ci dà l'energia del pesce. Cioè è anche brutto perché le emozioni sono anche fatte di sofferenza, ma questa è vita, ragazzi. Questa è vita, questa è vibrazione, come la musica e questi musicisti che vi ho detto prima. Comunque si sente tantissimo sta cosa. Se è tu vero, vedi sono controversi, diciamo. Diciamo, lascia perdere Justin Bieber, però veramente i due primi, cioè, stanno nel pathos, ma quanto ci hanno aiutato, raga. Comunque, vi do solo l'esempio di John Frusciante, che quando era un pesce giovane non evoluto e stava nel disagio, era drogatissimo, ha fatto un album solo bellissimo che si chiama Niangel, oddio, Lades and Usually Just a T-Shirt, che praticamente ha ammesso che l'ha fatto solo per pagarsi la droga. È un album incredibile dove non ci sono confini, lui fa quel cazzo che gli pare. Cioè, quello che mi hai mandato, eh? Sì, bellissimo. Ascoltatevelo tutto, è incredibile. Questo era lui nel suo pathos, anche se ha fatto bellezza e creatività, ma stava male, è quasi morto infatti. Dopo che ha fatto tutta questa trasformazione interna e ha voluto uscire di questo disagio, dopo infatti è ritornato nella band, dopo ha iniziato a fare musica incredibile e lui ha dichiarato: ho smesso di drogarmi, ho smesso di bere e adesso mi rendo conto che tutto questo sono solo cazzate e le cose veramente belle nella vita sono la musica e fare yoga e meditazione. E questo non vi dico dovete tutti fare così, però questo è l'esempio della trasformazione del pesce, che una certa dice: io devo sentire le mie emozioni, mi devo connettere al mondo, ma non il mondo che soffro o faccio soffrire l'altro, nel mondo di una connessione e di creare bellezza. E quanta bellezza ha creato questo uomo, diciamolo. Allora, adesso non so se è rimasto un minuto. Certo, certo. Allora, con un minuto, io vi direi anche questo rispetto alla musica, che perché ci dobbiamo, assolutamente dobbiamo sentire questa emozione e connetterci con gli altri e avere compassione? Perché è anche così che possiamo stare dentro il nostro corpo, perché le emozioni lì vivono, e non è nient'altro. Quando facciamo musica, ascoltiamo musica o balliamo su della musica, siamo connessi al nostro corpo, e questa è una cosa fondamentale proprio per la vita, per la trasformazione e per guarire il mondo. Quindi quello vi voglio dire, cioè non sprofondate nel vostro malessere, non scappate sempre, cioè un po' si fa, va bene, ma non sempre. Bisogna farsi coraggio e stare insieme, creare fratellanza e sorellanza, immaginare cose migliori, però rimanere anche nel pratico di capire ok, come facciamo però per creare queste situazioni migliori e come facciamo adesso per lottare contro le forze malefiche che ci stanno. Brava. Vi voglio bene e vi mando questa canzone di una figa frena incredibile, Princess Nokia. Che cosa? Che? No, quella era una roba nostra. Era una cosa, non lo so. Ma distratto, ma tentativo va bene così. Di franci. No. Anche questa fa parte del mondo dei pesci, la distrazione costante, la distrazione. Quindi ci sta. Dai, un abbraccio a tutti. Peace and love. Brano. Gemini. I am Gemini, super fly guy. I am Gemini, two heads, one eye. I am Gemini, like Pac, Andre, Lauren and Kanye, Boy George and Anne Frank. I am Gemini, but no, I'm not fake. I am Gryffindor, but don't move like Snape. I am Gemini, people love to call me crazy, but they judging and they hating, and I'm too gone for explaining. I am Gemini. June 14th, and all the famous rappers got a sign like me, and all the famous rappers got a heart like me, but I know that I'm different and they're not quite me. I'm the horoscope ho, I'm the planet and moon, I'm the rising ascendant, fifth degree to the moon, I'm the witch of your dreams, I'm the voice in your head, your husband sent me a DM and I just left them on red. My planet's Mercury, my element is air, I'm such a free spirit that I don't fucking care. If I got a blunt, I ain't moving out my chair. You can kiss my derriere, cause he's shaped like a pear. Little zodiac, ginger snap, pretty little shorty with the snapback. Tarot deck on sack, like to get her feet wet with peep sweat. The freak neck from Harlem to BX, I clean up like Kleenex. Spinelli, I'm recess, kickball to the deep end. The public school era is old school forever. The moon and the tides really control the weather. The sun and the moon, yes, it do go together. A spiritual being that rides any weather. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on a storm, riders on a storm. Always on my own, trying to find up a home. Intelligent, adaptable, agile, communicative. Informative, creative, and everybody hates it. Imagination colorful when I just entertain it. A poet and a dreamer, I'ma seize the world and take it. Of course there is the bad, I'm really superficial. I ain't called you in 3 months, still I maintain that I miss you. A Gemini with issues, social isolated. I pray that I'ma make it, or at least that I can take it. And like a Gemini, I'm really prone to changes. I'm really indecisive and I really fucking hate it. Picking food or picking clothes, it always make me anxious. But thank God I'm androgynous, cause boys close what I stay in. Riders on a storm, riders on a storm. Yes, I'm on my own, trying to find up my home. Riders on a storm, riders on a storm. Always on my own, trying to find up a home. Stai ascoltando Radio Forte e questo è 100 Celle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. 100 Celle Avengers, la musica si difende. E la musica si finisce di difendere anche oggi, sabato 21 febbraio, in questa edizione anomala, ma ricca, ricca di contenuti. Ringraziamo la professoressa maestra Julie, alla quale comunque ho da fare due appunti, ma giusto per fargliela prendere a male e così non torna per altri sei mesi. Aia. Allora, anzitutto, perché mi hai fatto mettere un pezzo che si chiama Gemini? Dopo che ci ha attaccato la pippa sui pesci, però questo perché rispondere. Magari non tutti sanno che Gemini sono i gemelli. Era per spoilerare quello che sarà il futuro. No, che sì, al mese di giugno. No, ma volevo. Infatti, grazie, mi sono scordata di dire sta cosa. Che in realtà ha proprio dei pesci che, siccome è tutto legato, i pesci sono tutti i segni dello zodiaco. Aveva anche senso di fare una cosa che non ha nessun senso. Ma certo. Top, farei un altro applauso a questa risposta, che comunque me la sono cercata. L'altra cosa è che comunque ci hai fatto due palle così con Beyoncé, e quindi cioè nel senso me l'hai fatta amare diciamo di più anche tu, e quindi questo tuo approccio odierno contro Beyoncé, che io comunque registro e ne prendo atto, mi ha lasciato. Ma così, ai pesci piace cambiare dei pesci? No. Scusa, sì, c'è la luna in pesci. No, siamo tre capricorni. Il problema è che poi i pesci si innamorano tanto, c'hanno la fissa, come ha avuto con Beyoncé. Ancora li voglio bene. Però... No, però poi prego. Quando c'è una desillusione quando c'è una desillusione non si torna indietro, no, quindi no. Scusami. Posso, mi sembra giusto. Posso capire, e soprattutto cioè è colpa di Beyoncé se c'è un problema, sì. Non... Assolutamente. Sì. Per andare a concludere questa bellissima puntata nonsense che è uscita oggi, puntata 63, 63esimo anno di cazzate, vado a ripescare la rubrica che tutti amano e che si chiama... Oh santo Dio. No, certo. Non si chiama così. Si chiama bellissimo. Oh santo Dio. Ma come si chiama? Campioni del mondo. Sigla. We are the champions of the world. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni. Lo spolin solo dei cani. Campionato. Il coccodrillo. Campionato. Il gufo con gli occhiali. Campionato. La luce di un mattino. Campionato. Campionato. Il mondo. Campionato. Campioni. Ogni nota che sento. Molto bene, in questa ultima puntata di Campioni del Mondo noi andiamo... Ultima, sì, ormai questa è la stagione finale. Non ve l'avevo detto? Certo. No, vabbè, era un modo per dire che sta alla fine della puntata di oggi. Ah. Ma tornerà, per carità. Questa ultima. Anzi, nel senso di recente. Recente. Anzi, quello che vi chiedo di fare oggi insieme, come una famiglia, sono le pulizie. Cioè... Praticamente noi abbiamo un software che utilizziamo per mandare le sigle, quello dove io sbaglio sempre a cliccare, no? Avete presente? È colorato con tutte cose. E dove abbiamo nel tempo immagazzinato una quantità notevole di campioni che ricordate essere piccoli file di pochi megabytes, tutti confusi con dei nomi, con delle cose. E, quindi che cosa vorrei fare con voi quest'oggi? Un po' di pulizia, leviamo un po' di roba. Cioè, nel senso, a volte quando uno ha una cantina troppo piena di roba, per quanto lui abbia conservato tutto, non ha buttato niente, poi diventa inconsultabile, no? Diventa qualcosa che non sai più cos'hai, quindi è come non averlo. Questa è una giustificazione è su vero. Perché non trovi mai le sigle. Esatto, anche, okay. Cioè, diciamo che facendo questa pulizia da oggi in poi io sarò più solerte nel far partire le vostre sigle, non Perfetto. È vero. Comunque andiamo subito a fare questa io non ce l'ho manca Mina. La sigla mia. Mina di campioni a voi dedicati, perché? Perché sono colorati come le vostre gemme dell'infinito, ricordate la vostra gemma, che gemma c'hai tu? Io ho quella fucsia. Non quella fucsia, quella del potere si chiama. Tu sei la potente Virginia, poi è fucsia di colore, però è la gemma del potere. Potere. C'ho paura di andare avanti in questo caso sta cosa. Almeno il colore. Blu, santa madonna. Sì, la gemma blu, detta anche la gemma dello spazio, okay, quella che ci permette di muoverci nello spazio e in tutto l'universo alla velocità di... Ma tu invece? Io quella rossa dei nerd? Esatto, che si chiama la gemma della realtà. Ti concedo che è quella che si capisce un po' di meno cosa fa, perché poi è un po' fluida, un po' gemma, un po'... Comunque, sempre meglio fatto... di uno zoccolo. È sempre meglio che c'è un zoccolo solo per combattere, o i capelli che menano. Comunque, andiamo praticamente a sciolinare a caso, in ordine colorato, vai. Campioni a voi dedicati. Ad esempio questo qua, che forse non è mai andato, questo è anche un modo per così, si levamo, li mando sì. Questa è dedicata a Virginia. Te deve da ritenere fortunato, perché sei un cacone. E Nino il cortello suono sporca con viacco. Te dici, qual è l'associazione mentale che ti ha portato da Celentano a Virgi? Era così, un po' di prendere. Hai fatto tutto te, quindi. E infatti non l'ho mai messo per paura. Perché sei un cacone, a quanto pare. Perché sei un cacone. Perché sei un cacone. No, era una cosa riferita più che altro, sì, alla sua, diciamo, questo era il più del potere. Borgo. Il suo potere e anche, diciamo, la sua competitività. Ma erano altri tempi, poi tutto è cambiato. Marialese. Mentre questo richiamava un po' Gabri Grubi. Anzi, mo chiamo mio padre e mio fratello, che so peggio. Perché era riferita ai parenti delle vittime di furto di diritto d'autore, di cui noi ci siamo occupati spesso e volentieri. Quest'altro invece non lo butterei, perché è quello che anche oggi mi serve per dire che mi sento solo col suo dolore. Sì, tienilo. Questo è quando Gabby non c'è. Che oggi non hai mandato. Sento il mare, io lo butterei. Lo volete risentire? Sento il mare. A posto, questa è la signorina Silvani. Via. Poi abbiamo con la gemma dell'anima, che quindi mi si riferisce, per Rise and Fall c'era questo. Ma che non lo sai che il mondo è fatto a scale? Chi le scende e chi le sale, santità. Vecchia citazione a proposito di quelle che nessuno ormai capisce, quindi cioè, no? Un po' fine a se stessa. Santità. Ecco. Te faccio scendere quelle di Castel Sant'Angelo. Finché c'è gente age che mi sostiene, io lo tengo, e quindi lo tengo. Poi, omaggio al nostro drone. Ve lo ricordate quando registravamo? Tienilo, questo può sempre servire. Quest'altro è sempre riferito a Virgi. Era un po' quando Virgi ti trovava il collegamento con l'artista, diciamo, non proprio centrato sull'argomento, ma parente o amico, conoscente, che poi aveva fatto un pezzo con quello, e quindi questa. Cari spettatori di Telemergellina, per presentare il numero che segue non ci sono parole. Ve lo ricordate, il batterista Parascandolo? Quello che accompagnò nella sua tournée in Puglia, Campania e Basilicata, il famosissimo cantante Gennarino Savastano. Indovinate chi abbiamo l'onore e il piacere di avere stasera qui in studio? Il fratello di Parascandolo! Un applauso. Questa, vabbè, io di mio non riesco... Cioè, forse questo lavoro lo devo fare con voi che tenete il mouse, perché poi non riesco a buttare niente. È vero. Così come non so se buttare questa che andò una volta sola, io la tenni. Una cafonata? Sì! Una cafonata! E questo era un grande classico che Betta mi fece caricare quando una volta doveva distinguere fra... insomma, c'era tipo un senso che poi andò perso e rimase solo Christian De Sica. Quindi è un po' in bilico, lo metto un po'. Beh, la caponata ne facciamo, quindi può sempre servire. Ero potrebbe sicura che era servire. Colpa mia. Dopodiché entriamo nell'ambito giallo, cioè la gemma della mente, cioè Viola, che non è qui a rispondere, avrebbe risposto sicuramente. La gemma della mente, maestro! E assolutamente non si butta. Ma come fa? Beh, no, questo serve perché sempre. Questo vale per qualsiasi momento. Poi abbiamo dei momenti variopinti, bambini felici, bambini non felici, bambini troppo felici, bambini che protestano. Da qualche bambino lo leverei. Allora, vogliamo togliere questi? Sì. Questi sono più fastidiosi, va bene, tolto. Dopodiché, sempre nell'ambito della letteratura, e qui ne abbiamo diversi, quindi qua facciamo un po' di spazio, perché veramente non ce la faccio più. Comunque abbiamo una serie di massime di un grande letterato. Il profumo del caffè al mattino è un piccolo rituale di felicità. Bastano le note di una canzone, le sensazioni di un libro dai colori che scaldano il cuore, che bastano gli aromi di una cucina, la poesia dei pittori della felicità. Cioè posso andare anche avanti. Basta il muso del tuo gatto o del tuo cane per sentirti una felicità lieve. La felicità lieve, secondo, no, secondo Fabio Volo. La felicità fatta di emozioni in punta di piedi. Non riesco a fermarmi. Un campo di girasoli sa illuminarti. Butta il tutto. Volto che il profumo della primavera ti sveglia dall'inverno. Sederti a leggere all'ombra di un albero rilassa e libera i pensieri. L'amore è fatto di è sensazioni flusso, delicate, un flusso, di piccole scintille allo stomaco. È quasi finito. Sentire una voce al telefono, ricevere un messaggio inaspettato, sono piccoli attimi felici. Un vocalone. Nonostante le tue difese, nonostante il tuo volere, il tuo bella. Destino, in ogni gabbiano che vola, c'è nel cuore un piccolo grande Jonathan Livingston. Io spero che mentre Fabio Volo registra i suoi podcast c'ha dei contributi di Viola che fa la radio. Io spero molto. Penso di avere la vostra approvazione nel momento in cui seleziono in blocco questi tutti file Fabio Volo. E li butto. Un applauso. È stata dura. L'ultima volta. È stata dura. E ti propongo solo per un attimo i supereroi preferiti di Pippo, che sono due: Cook e Iron Man. Comunque, non in quest'ordine. Cook. Per riprendere le fila del discorso, che stavamo a dire quindi? Questo non si può buttare. Mi sembra. Abbiamo appena riabbracciato fra i nostri campioni. Ritorniamo un attimo alla famiglia, che sempre non si tocca perché è sacra. E niente, sei tutto. Come ti chiami? Papà. Niente, anche questo è rotto. E a questo punto un campione che comunque in tempi non sospetti, cioè quando ancora non si parlava tutti i giorni di questo. Dove eravamo rimasti? Era Enzo Tortora che ritornava in televisione. Adesso tutti la sanno questa, quando siamo. La misi la prima volta. Esce la serie, ma che ha messo sta cosa? Era riferita a quando noi tornavamo in onda dopo mesi. Prima, e mica dopodiché, adesso. Nella categoria momenti di post-produzione seria abbiamo la violenza. Se il cancello è forte. E questo torna sempre utile nei momenti di smarrimento. Questo questo veramente è stato il giorno della prima diretta, volevo infondervi coraggio. E i vostri occhi, certo, chi combatte può morire. Vi feci un discorso che il mio cuore. Senza libertà cosa farete? Ci sarà un giorno che ormai è di destra, praticamente sto discorso ormai è di destra. Pure prima, comunque non è questo il giorno. Adesso è diventato proprio, se li sono presi tutti, sia Braveheart che il Signore degli Anelli. Quindi passiamo a qualcuno che resta sempre nel nostro cuore. Ma vedi dannattena. Ma come? Dico, resta sempre nel nostro cuore. Ma vedi dannattena. Stai parlando della mia chitarrista. Della mia favorita, tua chitarrista, sì. Ma soprattutto. Sì. Ma vedi dannattena. Anita con la sua approvazione che noi abbiamo conservato negli anni 63 anni, ricordo. Anni fa Anita già suonava benissimo. Tornando, cioè rimanendo nell'ambito persone che ci hanno attraversato, c'era anche questa violenza. La prossima volta te spunno. Che risale sempre ai momenti, diciamo, iniziali di Centocelle Avengers. Mentre poi, quando cominciammo ad avere ospiti in diretta, accadde anche. Mi hanno censurato. Questa non è una radio libera. Sì, non è una radio libera. Allora, qui c'era gente che lo teneva fermo. C'era una scena abbastanza forte, comunque, che ci siamo vissuti. Infatti, non è più passato. No, e speriamo che rimanga così la cosa. Guido, ti aspettiamo. Così, questo è senza. E poi non so perché c'è Patrizio il Gallo. Che era il gallo del forte che io campionai. Era? Però era perché un po' che non lo vedo. Ora non lo so se magari è più informato sul canale Telegram, fateci sapere che fine ha fatto. È passato alla Patrizio il Gallo, e non so perché l'avevo associato al colore di Franci. Chissà qual è stato il volo pindarico che mi ha fatto mettere Patrizio perché faceva chi e non chi, quindi era qualcosa di ritmico, forse era qualcosa di più profondo. Comunque. Quindi questo è il significato dei colori mortacci. Dopo allora, 63 anni quindi se ne ci accorto. Sta bene che io metta ticciolo, questo non l'avevo mai capita sta cosa. Cioè veramente Franci, grosse delusioni. E a questo punto ti becchi anche come parla. Le parole sono importanti. Come parla? per andare a chiudere. Poi questo che lo butterei. Ognuno di loro, di questi studenti, nelle scuole di musica ha imparato a esprimere liberamente i propri pensieri e sentimenti in modo musicale. Cioè, capito, questi siamo noi. No, questi erano gli allievi della scuola di musica della Yamaha. Ah, è vero! Dove erano, certo, erano praticamente i cyborg. Ma contro i quali nel noi passato eravamo gli esseri umani, loro erano le macchine. Macchine. E noi andavamo a vincere come... Vabbè, l'ho tolto, eh. Andiamo a concludere salutando anche la nostra professoressa giornalista faziosissima Gabri Grubi, che oggi ha deciso proprio di non arrivare, ma di solito voi siete meravigliosa, strepitosa, affascinante, coscienziosa, puntuale. Puntualissima. Cioè bellissima. Buona la seconda. E lavora in tribunale. Se solo avessi saputo. A volte arriva tardi. Che cosa vuoi dire? Purtroppo la sentenza del ragazzo è già stata eseguita. Quando Gabri arriva tardi in ufficio. Di morte. Purtroppo c'è gente che viene condannata perché lei si è persa nel traffico. Sono enormemente dispiaciuto. Anch'io. Esiste inoltre una legge che dice che le anatre devono indossare. E questa riguarda Brocardi. Che mi venisse un colpo, calzoni lunghi. Leggi quell'altra, quella per i non piumati. E con la presente le bevande alcoliche sono proibite, pena la catapulta. Non la so catapulta. Veramente perché. Oh mio Dio. Comunque, con questo si conclude questa bellissima puntata di Aquiloni di parole. No, di Campioni, no, del mondo. Di Campioni del mondo, con la quale concludiamo anche la puntata, mettendo per un secondo, perché tanto siamo sforati di non so, d'ora. Un quarto d'ora, quel pezzo che dovevo mettere quando parlai degli inumani, perché faceva molto ridere che si chiama Something Human. E quindi top, cioè, però adesso arriva tardi questa cosa. E quindi ciao a tutti da Centocelle Avengers, a risentirci. Ciao! Ciao! And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up.